Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge L'isola di Arturo, di Elsa Morante. Finita la cena, io e Silvestro rimanemmo svegli a conversare fino a tardi. Per fortuna, egli aveva pensato a provvedersi di un paio di candele di ricambio per la nostra lanternetta. Parlammo di mille cose, del passato, ma soprattutto del futuro, e delle certezze assolute, e della rivoluzione, eccetera. Silvestro mi pregò anche di leggergli qualcuna delle mie poesie. Io, naturalmente, scelsi quelle più belle, di maggiore effetto, e vidi che lui, nell'ascoltarle, aveva addirittura le lacrime giù per il viso. Il braciere acceso in mezzo a noi due ci mandava un tepore piacevole, e alla luce misteriosa di quella lanterna a vetri, là, seduti nella grotta su quella pomposa imbottita arancione, potevamo davvero figurarci di stare in una tenda araba o persiana, e che l'abbaio remoto dei cani fosse il ruggito delle belve esotiche. Il vento e il mare si erano calmati, promettendoci per l'indomani una traversata tranquilla. Verso le 10 mettemmo fuori della porta il braciere per non rischiare di avvelenarci con le esalazioni. Accostammo l'uscio, spegnemmo la lanternetta e, avvolti nelle nostre coperte, ci mettemmo a dormire. Mi svegliai di soprassalto, nel mezzo della notte, sorpreso da un gran suono fragoroso che echeggiava per le pareti di roccia d'intorno a me. Sui primi istanti non rammentavo nulla, né gli avvenimenti del giorno prima, né perché mi trovassi in questa cameretta di pietra. Ma non tardai a raccogliere le idee e mi resi conto che il fragore di cui mi stupivo era semplicemente il russare di Silvestro, tale che sul serio poteva valere per un plotone completo, altro che per un soldato solo. La scoperta mi esilarò molto. Cercai di ricordare le migliaia di volte che dovevo aver già sentito questa medesima sinfonia ai tempi che mi coricavo con Silvestro da guagliuncello, e risi fra me a figurarmi i pensieri che potevo aver avuti allora, udendo il mio balio produrre musiche così curiose. Mi ripromisi quindi, con un divertimento anticipato, di canzonarlo su questa sua arte, subito appena alzati domattina. E quasi cullato dal suo ritmo simpatico e pieno d'amicizia, mi riaddormentai stavolta d'un sonno tranquillo. Il risveglio naturale mi sopravvenne però assai presto. Faceva ancora buio fondo e alla luce di un fiammifero potei leggere sulla sveglia, tolta prestito da Silvestro in paese, che mancavano più di 30 minuti all'ora della nostra alzata. Tuttavia non avevo più nessuna voglia di dormire e, badando a non disturbare il sonno di Silvestro, scivolai fuori dalla grotta. Tenevo la coperta sulle spalle alla moda siciliana, per uso di mantello, ma in verità non faceva freddo, neanche adesso che il vento sciroccale era caduto. Si capiva, dal riflesso lustro dei sassi, che doveva aver piovuto durante la notte. Qua e là, per il cielo stracciato, erano visibili le piccole stelle dicembrine e un'ultima falce di luna spargeva un pallidissimo barlume di crepuscolo. Il mare, steso dalla pioggia senza vento, oscillava appena assonnato e monotono, e io, avanzando lungo il mare in quel gran mantello, mi sentivo già una specie di masnadiero, senza casa né patria, con un teschio ricamato sulla divisa. Thank you. Dalla campagna già si udivano cantare i galletti, e d'un tratto un rimpianto sconsolato mi si appesantì sul cuore al pensiero del mattino che si sarebbe levato sull'isola uguale agli altri giorni. Le botteghe che si aprivano, le capre che uscivano dai capanni, la matrigna e Carminiello che scendevano nella cucina. Se almeno fosse durato sempre il presente inverno, malaticcio e smorto sull'isola. Ma no, anche l'estate invece sarebbe tornata immancabilmente uguale al solito. Non la si può uccidere. Essa è un drago invulnerabile che sempre rinasce con la sua fanciullezza meravigliosa. Ed era un'orrida gelosia che mi amareggiava questa, di pensare all'isola di nuovo infuocata dall'estate senza di me. L'arena sarà di nuovo calda, i colori si riaccenderanno nelle grotte, i migratori di ritorno dall'Africa ripasseranno il cielo e in simile festa dorata nessuno, neppure un qualsiasi passero o una minima formica o un infimo pesciolino del mare si lagnerà di questa ingiustizia, che l'estate sia tornata sull'isola senza Arturo. Mi stesi nella mia coperta su quei sassi bagnati e lividi e chiusi gli occhi, fingendo per un poco di essere tornato indietro a qualche bella passata stagione e di trovarmi disteso sulla rena della mia spiaggetta, e che quel vicino fruscio fosse il mare sereno e fresco di là a basso, pronto a ricevere la torpediniera delle Antille. Il fuoco di quella infinita stagione puerile mi montò al sangue con una passione terribile che quasi mi faceva mancare, e l'unico amore mio di quegli anni tornò a salutarmi. Gli dissi ad alta voce, come se davvero lui fosse lì accosto: addio, pa. Subitaneo il ricordo della sua persona mi accorse alla mente, non come una figura precisa, ma come una specie di nube che avanzava carica d'oro, azzurro torbido, o come un sapore amaro, o un vocio quasi di folla. Ma invece erano gli echi numerosi dei suoi richiami e parole che ritornavano da ogni punto della mia vita, e certi tratti propri di lui, ma quasi trascurabili, una sua alzata di spalle, un suo ridere distratto, oppure la forma grande e negletta delle sue unghie, le giunture delle sue dita, o un suo ginocchio graffiato dagli scogli. Ritornavano isolati a farmi battere il cuore, quasi unici simboli perfetti di una grazia molteplice, misteriosa, senza fine, e di un dolore che mi si faceva più acerbo per questo motivo, perché sentivo che esso era una cosa fanciullesca. Pari a un incontro di correnti turbinose, esso si precipitava tutto quanto in questo presente, breve passaggio d'addio. E dopo lo avrei dimenticato, naturalmente, tradito. Di qui sarei passato a un'altra età e avrei riguardato a lui come a una favola. Ormai gli perdonavo ogni cosa, anche la sua partenza con un altro, e perfino quel suo severo discorso finale nel quale, alla presenza di Stella, m'aveva chiamato, oltre al resto, Rubacuori e Don Giovanni, e lì per lì mi aveva offeso non poco. In seguito, ripensandoci a distanza, mi son domandato se in fondo quel suo discorso non fosse poi giusto, almeno in parte. Forse davvero io, mentre mi credevo innamorato di questa o quella persona, o di due o anche tre persone insieme, in realtà non ne amavo nessuna. Il fatto è che in generale io ero troppo innamorato dell'innamoramento. Questa è sempre stata la vera passione mia. Sì, ho il fondato sospetto che quel discorso non fosse del tutto sbagliato. Il sospetto, non proprio la certezza. Così dunque la vita è rimasta un mistero, e io stesso per me sono ancora il primo mistero. Da questa infinita distanza adesso ripenso a William Gerace. Me lo immagino forse più che mai invecchiato, imbruttito dalle rughe, con i capelli grigi, che va e torna solo, scombinato, adorando chi gli dice parodia, non amato da nessuno, giacché perfino Nunziata, che pure non era bella, amava un altro. E vorrei fargli sapere, non importa, anche se sei vecchio, per me tu resterai sempre il più bello. Di lei a suo tempo ebbi qualche notizia a Napoli attraverso viaggiatori venuti da Procida. Stava bene, di salute, per quanto dimagrata molto, e seguitava la solita sua vita nella casa dei Guaglioni, con Carmine che si faceva ogni giorno più simpatico. Essa però non usava più chiamarlo Carmine, lo chiamava a preferenza col suo secondo nome di Arturo. E per me, io sono contento che sull'isola vi sia un altro Arturo Gerace, biondino, che a quest'ora, forse, corre libero e beato per le spiagge. Dalla grotta, che avevo lasciata socchiusa, mi giunse il trillo della sveglia. Accorsi nel timore che esso non bastasse a scuotere il sonno del mio balio, ma trovai invece costui già seduto fra mezzo alle coperte, che si stropicciava gli occhi intontito e borbottava degli accidenti contro quel trillo importuno. Immediatamente, facendomi accosto a lui, io gli annunciai, con impazienza trionfale, «Ehi, ma lo sai che Russi?» russo. Che c'è? E si capisce che non dovrei russare. Ogni cristiano quando dorme russa. Eh già, esclamai io, rotolandomi addirittura in terra dalle risate. Però c'è maniera e maniera. Tu batti il campionato mondiale, sembri un'orchestra radio al massimo. Ah sì? Ci piacerà assai. Egli ribatté, ormai del tutto sveglio e piuttosto impermalito. Ma perché, forse tu, guagliò, ti crederesti per caso di russare piano? Che stanotte io a una certa ora ho dovuto uscire sulla spiaggia per fare un goccio d'acqua. E là, a una distanza di 10 metri, si sentiva ancora un russare dalla grotta come se passasse una squadriglia d'apparecchi a bassa quota. Simile notizia mi fece felice. Difatti, se russavo a questa maniera, era chiaro segno che potevo ormai considerarmi cresciuto, maturo e realmente virile, sotto tutti i riguardi. Ci caricammo dei bagagli, coperte, eccetera, e ci avviammo verso il paese, per la riviera che incominciava a sbianchirsi nell'alba. Lungo la linea di levante, un colore rosso, sotto strisce di nubi cupe, annunciava una giornata di tempo volubile. Come giungemmo alla piazza, Silvestro si diresse verso la capitaneria, già aperta, per consegnare a un tale suo conoscente i vari oggetti avuti ieri in prestito da restituirsi ai diversi proprietari. Egli si incaricò pure di acquistare i biglietti per la nostra traversata, mentre io lo precedevo verso il molo. I primi raggi del sole, interrotti e corruschi, si allungavano sul mare quasi liscio. Io pensai che fra poco avrei veduto Napoli. Il continente, le città, chissà quali moltitudini. E mi prese una smania improvvisa di partire, via da quella piazza e da quella banchina. Il piroscafo era già là, in attesa. E al guardarlo, io sentii tutta la stranezza della mia tramontata infanzia. Aver veduto tante volte quel battello attraccare e salpare e mai essermi imbarcato per il viaggio. Come se quella per me non fosse stata una povera navicella di linea o una specie di tramvai, ma una larva scostante e inaccessibile destinata a chissà quali ghiacciai deserti. Silvestro ritornava con i biglietti e i marinai andavano disponendo la scaletta per l'imbarco. Mentre il mio balio conversava con loro, io, senza farmi vedere, trassi di tasca quel cerchietto d'oro che Nunziata mi aveva inviato la sera prima. E di nascosto lo baciai. A riguardarlo, d'un tratto una debolezza inebriante mi oscurò la vista. In quel momento l'invio dell'orecchino mi si tradusse in tutti i suoi significati: d'addio, di confidenza e di civetteria amara e meravigliosa. Così adesso avevo saputo che era anche civetta, la mia cara innamoratella. Senza conoscersi, certo, ma lo era. Difatti, quale altro saluto di donna potrebbe mai esprimere una civetteria più bella di questa sua, nella sua ignoranza? Mandarmi in ricordo non il segno d'una mia carezza o d'un bacio, ma di un maltrattamento infame, come a dirmi: anche i tuoi maltrattamenti sono cose d'amore per me. Provai la tentazione furiosa di tornare indietro, correndo fino alla casa dei Guaglioni, e di coricarmi accanto a lei e di dirle: fammi dormire un poco assieme a te. Parto domani. Non dico che dobbiamo fare l'amore se tu non vuoi, ma almeno lascia che io ti baci qua all'orecchio dove t'ho ferito. Già però il marinaio ai piedi della scaletta stracciava i nostri biglietti per il controllo. Già Silvestro saliva assieme a me la scaletta. Già la sirena dava il fischio della partenza. Come fui sul sedile accanto a Silvestro, nascosi il volto sul braccio, contro lo schienale, e dissi a Silvestro: «Senti, non mi va di vedere Procida mentre s'allontana e si confonde. Diventa come una cosa grigia. Preferisco fingere che non sia esistita. Perciò, fino al momento che non se ne vede più niente, sarà meglio che io non guardi là. Tu avvisami a quel momento». E rimasi con il viso sul braccio, quasi in un malore senza nessun pensiero, finché Silvestro mi scosse con delicatezza e mi disse: «Arturo, su, puoi svegliarti». Intorno alla nostra nave La marina era tutta uniforme, sconfinata come un oceano. L'isola non si vedeva più. Salve, sono Arturo Cirillo. Forse vi ricorderete di me, ci siamo sentiti all'inizio di questa lunga serie di letture che Iaia Forte ci ha regalato dell'Isola di Arturo di Elsa Morante. E come avrete sentito, il libro si è concluso così. L'isola non si vedeva più. E forse è giusto che nel momento in cui non si veda più l'isola, in qualche modo finisca anche il libro di Elsa Morante. Questo è un congedo, il congedo del fanciullo Arturo che ci ha narrato le sue memorie. Questo fanciullo che ormai forse non è neanche più fanciullo e forse anche per questo lascia l'isola. Fuori dell'isola lui cosa troverà? Si capisce che troverà una guerra che sta per iniziare, la prima, la seconda, più difficile forse questo da capire. Troverà, finalmente scoprirà la città di Napoli che tante volte ha sentito nominare. E anche tutto quanto un continente, l'Italia e forse qualcosa anche di oltre. Troverà la vita adulta nella quale Arturo si ricorderà di lui ragazzino. Racconterà tutta la sua giovinezza e in questo modo diventerà lo scrittore che a un certo punto, verso la fine del romanzo, parlando con Silvestro, il ragazzo che gli ha fatto da balia, lui si definirà così, quando dirà a Silvestro: vai nella mia casa e prendi tutte le poesie perché sai, io sono uno scrittore. Quindi Arturo scriveva poesia e lasciando l'isola incomincerà invece a scrivere il suo romanzo, L'isola di Arturo. Lui nell'isola capiamo che ci sembra, insomma, di capire che non tornerà più, anche perché nell'isola adesso c'è un altro Arturo, come avrete sentito. C'è Arturo Carmine, Arturo Carminiello, c'è il suo fratellastro, che Nunziatella, dopo la partenza di Arturo, deciderà di chiamare sempre con il suo secondo nome, e quindi non più Carmine, ma sempre Arturo. Quindi l'isola di Arturo in qualche modo continuerà ad essere tale. Questo Arturo Carmine però avrà una fortuna che l'Arturo invece protagonista non ha avuto. Questo Arturo Carmine crescerà con una madre e invece Arturo, il nostro Arturo, come ben sappiamo alla fine di queste letture, invece la sua mamma non l'ha mai conosciuta, l'ha vista varie volte in una foto e se l'è immaginata e sognata all'interno di una tenda orientale in un posto lontano ma anche felice. Quel paradiso altissimo e confuso di cui parla Sandro Penna in una sua poesia e che la stessa Morante usa come epigrafe nel romanzo. E poi vi è Nunziatella, come dicevo, la madre di Arturo Carmine, la matrigna di Arturo, e questa unica donna che sembra in qualche modo resistere dentro la casa dei Guaglioni, che sembra sopravvivere dentro la casa dei Guaglioni, perché anche la cagna Immacolatella morirà. Questa unica donna che sopravvive, Guagliona lei stessa, che diventerà il grande amore del ragazzetto Arturo, un amore che a me ha sempre molto commosso, perché è un amore in fondo impossibile e quindi condannato ad essere vissuto solo nel rimpianto e nella nostalgia. Ma non per questo io però lo sento meno reale e meno concreto e anche meno doloroso. Come il bacio, quel bacio che Arturo per tutto il romanzo sogna di dare a Nunziatella, e questo bacio invece non riuscirà mai a compiersi, ad avvenire. E in questo bacio sempre desiderato e che mai diventa un atto, io vedo qualche cosa di molto anche straziante. In effetti tante cose Arturo, andando avanti nel libro, forse crescendo, incomincia a voler fare e non riuscire più a fare. Lui vorrebbe regalare un riccio di mare che lui ha trovato come omaggio a Nunziatella dopo il parto. Vorrebbe dare al padre una lettera di crudele commiato prima di abbandonare l'isola, e questa lettera invece gli resterà sul petto sotto al pullover e non avrà la forza di dargliela. Avrebbe appunto voluto morire e vedere il dolore delle persone care che restavano in vita e che in qualche modo l'avrebbero ricordato. Insomma, da un certo punto in poi sembra che Arturo incominci a rimpiangere, incominci a capire che molto bene che lui prova non può, non riesce, non è giusto manifestarlo. E questa vita di rimpianto, questa nostalgia inguaribile, perché in qualche modo legata a un tempo nel quale non si può più tornare, come nell'isola non si può più tornare. Ecco, io in questo rimpianto della vita, o se vogliamo della giovinezza, io omonimo, come ormai avrete capito, del personaggio, e molto più mediocre personaggio io stesso, mi sento però in questo simile e fratello di Arturo. Fratello anche nel suo ricercare fratelli che in qualche modo uno si fa da sé, che sono gli amici. O come scriverà lui stesso in una cosa che mi piace molto, a un certo punto lui dice: aspetto sempre che il mio giorno arrivi, simile a un fratello meraviglioso con cui ci si racconta abbracciati la lunga noia. Ecco, Arturo ha preso la compassione durante questo libro, ha assistito alla caduta tragica di quello che per lui era il più grande degli eroi, cioè suo padre, e alla fine, lasciato l'isola dall'altrove in cui poi lui in realtà ci ha narrato tutta la sua storia, se lo immagina questo padre, più vecchio, con i capelli bianchi, condannato ad un continuo partire e tornare nell'isola di Procida, inseguitore senza quiete di chimere fanciullesche. Ecco, in conclusione a me sembra che alla fine, in questi personaggi dell'isola di Arturo, vi è qualcosa che ci appartiene e ci riguarda, in tutti loro, un destino che ognuno di noi ha e anche una inconsapevole sapienza che ogni tanto cogliamo e spesso dimentichiamo, e soprattutto l'essere sempre per noi stessi come per gli altri un mistero. Iaia Forte ha letto L'isola di Arturo di Elsa Morante, postfazione di Arturo Cirillo, a cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.